Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna. Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà. Ci porterà.